piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Improvvisamente una sera mi arriva una foto, l'ennesima foto di un gatto affacciato alla a una di queste finestre, ma questa volta questo gatto rosso è proprio in bilico sul cornicione. Questo mi scatena tutto, mi riscatena la voglia di fare qualcosa, la rabbia, l'impotenza. Queste sono le finestre sotto cui io e altri volontari da anni, precisamente dal 2006, sostiamo ininterrottamente quasi per questa situazione di questa persona accumulatrice seriale, nonché barbona domestica, che negli anni ha preso numerosissimi gatti. Il nostro compito è stato quello, proprio in tutti questi anni, di aiutare i gatti che si affacciavano da queste finestre, molto impauriti, e cercavano di buttarsi di sotto. Siamo riusciti a prenderne diversi in situazioni psicofisiche molto molto preoccupanti, alcuni erano molto agitati, spaventati, catatonici, disidratati e affamati. Il nostro compito è stato negli anni questo, visto che comunque nessuno ci dava retta, quindi purtroppo eravamo lasciati soli e dovevamo avere questo compito qua. È una brutta storia, una storia che riassume in sé tutta una serie di evidenze sulle categorie marginali metropolitane. La protagonista è una signora di cui poi parleremo più nello specifico, senza poi dare troppe informazioni e meno sulla sua identità, perché è comunque una persona con dei problemi di salute, e anche in questo va tutelata. Questa signora è al centro di una vicenda che è seguita con grande apprensione da molti cittadini della capitale, in quanto è accusata di essere una killer seriale di gatti, una serial killer di gatti. Sulla vicenda di questa signora si può naturalmente incentrare tutta una riflessione ad più ampio raggio rispetto a quella che è l'attuale e probabilmente più moderna visione del rapporto fra uomini e animali, animali da compagnia, e soprattutto uomini e gatti, esseri umani e gatti, rispetto a una tradizionale visione di questo rapporto amoroso che può diventare anche sconfinare nel patologico, che è il rapporto della gattara. Io sulle gattare ho spesso parlato, spesso mi sono preso le ire di questa fetta di popolazione, comunque ha diritto di esistere. La gattara è fondamentalmente di genere femminile, ci sono anche gattari maschi, ne vedevo nella mia città d'origine, ne vedo molte a Roma. La gattara ha un amore giustamente sconfinato per i suoi amici pelosi a quattro zampe, che pensa di dover nutrire quotidianamente. Ogni giorno la gattara, con borse, contenitori, vari sistemi, si apposta in zone precise della città, angolini, e comincia a sciorinare il cibo per i suoi gatti. I gatti, soprattutto gatti di quartiere, gatti di strada, gatti randagi, gatti clochard, si avventano su questo cibo, mangiano, la gattara li conta in maniera scrupolosa ogni volta e vede sempre che qualcuno manca all'appello. Quindi la gattara è convinta che ci sia qualcuno che attenta alla salute dei suoi gatti. Nemico la gattara è chiunque voglia sterminare i suoi gatti. Pensa che esista una sorta di patologica determinazione in esseri umani di sterminare i suoi gatti. In realtà i gatti di strada muoiono per naturale intemperie della loro vita, vengono schiacciati dalle macchine, fracassati dagli autotreni e dagli autobus, mangiati dai cani, insomma, pure deperiscono per vari tipi di problemi. Nella città di Roma ultimamente hanno dei rapporti abbastanza sproporzionati con la popolazione di topi, che è cresciuta a dismisura, e naturalmente si prende la sua vendetta rispetto a un antico rapporto. Ma il racconto della serial killer dei gatti è un racconto molto particolare, perché in sé racchiude le due figure contrastanti della gattara e del nemico della gattara. In quanto lei è gattara, è accumulatrice compulsiva, vive in una casa piena assolutamente di tutte le cose peggiori. Esiste una serie televisiva, Case da incubo, l'accumulo compulsivo è una patologia per cui le persone prendono e portano a casa tutto quello che trovano per strada. Alla fine le case sono stratificazioni di immondizia, di oggetti dei più vari, che arriva fino al soffitto, in cui si destreggia come in una sorta di cunicolo la persona che è accumulatrice. Ma in questo accumulo è stato testimoniato da un reportage, Trappola per gatti, di Massimo Leopardi, che potete vederlo sul canale YouTube, in cui viene mostrato quello che accade in questa casa. Assieme all'immondizia, a me appaiono terrificanti delle carogne di gatti morti in sofferenza. 800 24 00 24. Avete anche voi un problema di rapporto con le persone che il tanto amore dei gatti porta a stati patologici, oppure anche voi vi occupate di gatti e avete l'idea che ci sia qualcuno che voglia attentare alla vita o alla salute dei vostri protetti? È stato effettuato un controllo. Quello che abbiamo trovato nell'appartamento è qualcosa di clamoroso, insomma, rifiuti, oggetti accatastati, già solo appena abbiamo aperto la porta d'ingresso. In mezzo a quei rifiuti siamo riusciti a salvare due gatti e a metterli al sicuro e affidarli in un centro autorizzato. Siamo riusciti finalmente a entrare dentro quell'appartamento. Era una cosa indescrivibile, non si riusciva a camminare, non c'era spazio per muoverci, però siamo riusciti a farci dare dalla signora i due gatti che erano all'interno. È stata un'esperienza meravigliosa, perché averli visti sotto per tutto quel tempo, soprattutto il gatto rosso che piangeva disperato, vederseli lì davanti e finalmente poterli salvare è stata una cosa meravigliosa. Immaginate la soddisfazione queste persone che hanno salvato il gatto rosso da sicura morte. Esistono dei passaggi in questo documentario in cui il gatto rosso, ma anche altri gatti, sconsolati, passeggiano sul cornicione di casa della gattara killer, pronti a spiccare l'ultimo balzo della loro gattesca esistenza, forse anche l'ultima delle loro nuove vite, già messe a repentaglio da quelle che sono le attenzioni malate di questa signora. Luca De Bei, buongiorno. Luca De Bei è un regista teatrale, un drammaturgo, ma al di là della sua professione da 10 anni segue come privato cittadino le vicende di quella che viene chiamata appunto la gattara killer di San Giovanni a Roma. Vediamo con la delicatezza che si deve comunque a un essere umano che ha un problema esattamente di cosa stiamo parlando. Ma guarda, io veramente vorrei subito dire che io non definirei questa donna una gattara, perché voglio dire, il termine gattara è un termine che si attribuisce a una persona che si prende cura dei gatti, che li sfama al di fuori della propria casa, che gestisce una colonia felina che per legge è regolamentata dal regolamento comunale. Le colonie di gatti vanno censite al Comune di Roma e quindi godono di tutta una serie di diritti, e le gattare sono persone che dedicano la loro vita e il loro tempo ai gatti. Questa donna è un'accumulatrice, non è una gattara, anzi è una che preleva indebitamente i gatti dalle colonie. Cioè lei accumula gatti come se accumulasse, che ne so, valigie vecchie, scarpe vecchie, prende gatti e li mette nel suo deposito di oggetti? Sì, è un caso interessante, anche se non credo atipico, perché il barbonismo domestico, anche riferito all'accumulazione di animali, pare che sia molto frequente, soprattutto nelle grandi città. Io ho parlato con la presidente del 7° municipio, che è il municipio di cui stiamo parlando per quanto riguarda l'abitazione della signora, e mi ha detto che solo nel suo municipio i casi di barbonismo domestico sono 36. Cioè, mi spieghi bene, sono persone che hanno, come diciamo, loro atteggiamento patologico, accumulare animali in casa. Sì, allora il barbonismo domestico è di oggetti, in questo caso c'è l'aggravante degli animali. Ora, ma sono le persone che noi vediamo nella serie Case da Incubo, che poi vanno a casa, ci sono questi assistenti sociali che li convincono a liberarsi degli oggetti, questi sono disperati, sì, e escono fuori dei container interi di roba dentro casa. Beh, anche in questo caso noi, attraverso l'intervento di un magistrato, siamo riusciti a fare uno sgombero proprio finalizzato, oltre che al risanamento dell'appartamento, che aveva delle condizioni igienico-sanitarie da incubo, però era finalizzato al recupero dei gatti e al trovare delle prove per il maltrattamento. Abbiamo tirato fuori dall'appartamento 16 tonnellate di oggetti. 16 tonnellate di oggetti? Sì, abbiamo riempito. È un problema anche per le strutture della casa, può crollare il pavimento se uno mette 16 tonnellate in una casa. Certo, tra l'altro un condominio elegante del centro di Roma, un condominio, chiamiamolo così, insospettabile. Ecco, ma lei ha un profilo, senza, naturalmente non voglio oggi dare l'identità, ma questa signora cosa faceva, cosa fa nella vita? Questa signora era una professionista, una psicologa, quindi una donna laureata, una donna colta, una donna, parlando con i vicini di casa, anche che la conoscono da quando era bambina, anche una donna, come dire, sensibile, che ci sta, perché voglio dire, le persone con problemi psichici sono spesso le persone no più fragili, ma anche che sentono più fortemente di altri il peso dell'esistenza. Quindi ha avuto un suo problema di degenerazione, ha cominciato a fare l'accumulatrice seriale. Esatto, quello che la spinge a prendere gatti è sicuramente un amore dal suo punto di vista, solo che è un amore malato. Quello che quindi nasce probabilmente come gattara, poi il suo stato patologico ha fatto sì che, ecco, cioè, ci sono le madri che si mangiano i figli. Nasce, quindi... No, non nasce come gattara, proprio perché, ripeto, le gattare sono coloro le quali... una gattara può impazzire, anche una gattara, non è che sono esenti dalla follia. No, io dico proprio come modus di fare, cioè la gattara si occupa di gatti al di fuori della propria abitazione, va a gestire e a curare colonie. Sì, infatti è un'attività, diciamo, di strada, on the road, la gattara si muove on the road. Esatto. Invece lei proprio li porta a casa, ma quello che mi ha colpito... E a casa, diciamo, poi li uccide lei o li fa morire di stenti? Li fa morire di stenti, proprio perché la sua patologia mentale, perché questa donna è seguita dal Dipartimento di Salute Mentale e dall'assessorato alle politiche sociali, questa donna è convinta in qualche modo che i gatti non abbiano delle esigenze, per cui adesso poi sentiremo uno specialista. Ci sono persone che si tengono la mamma mummificata nell'armadio, il marito mummificato nel letto. Ahimè, a un certo punto la distinzione è abbastanza labile. Lei è convinta che comunque siano qualcosa paragonabile a degli oggetti, non ha bisogno di nulla. Poi fermiamoci un attimo. Giorgio, sentiamo qualche telefonata. Giorgio, intanto 800 24 00 24, avete voi casi simili nelle vostre città, nella vostra esperienza? Qualcuno che ha degli animali, molti animali in casa, che accumula oggetti e quindi in qualche maniera non fa distinzione fra quelli che sono gli oggetti e poi gli esseri viventi. Giorgio, sentiamo Giorgio. Buongiorno Giorgio. Qui abbiamo fatto un discorso che esula dal mio intervento, perché volevo appunto fare un intervento per quanto riguarda le gattare, le persone che comunque amano i gatti e non li fanno morire di stenti, ma anzi li accudiscono per strada. Io ho tuttora un'esperienza di una ragazza che non ha lavoro, perciò comunque lo fa sui suoi sforzi. E io l'ho conosciuta perché portava sempre da mangiare a una colonia di gatti che è in un comprensorio dove io abito, perciò conosco anche le altre persone che sono nella zona. E vedevo questa ragazza che comunque era aggressiva verso le persone che passavano, verso di noi. Io perché teme che qualcuno faccia male sui gatti, questo l'ho detto. La gattara teme sempre che qualcuno attenti la salute ai suoi gatti. Normalissima, non è che sì, una ragazza che comunque di famiglia. E allora io mi sono interessato a questa cosa perché comunque non è che avessi un amore proprio per i gatti, molto più per i cani, comunque rispetto a tutti quanti gli animali. Mi sono fermato 2 o 3 volte a parlare, lei mi ha detto, dice, ma io quello che faccio cerco di dargli da mangiare. Era diventata una colonia, tutti quanti nel comprensorio se ne lamentavano di questa cosa. E io ho cominciato ad aiutarla economicamente, dandogli dei soldi per comprare delle scatole. Ma perché era impietosito da questa storia o è interessato alla ragazza? No, no, mica c'è niente di male. No. Uno può corteggiare in tante maniere. Una gattara la corteggi col kit kat, mica la corteggi con i fiori. Guardi, io vivo in un mondo dove io sono un ragazzo che ho comunque 58 anni e lei per me è anche un ragazzo. L'ho chiamata ragazza, ma insomma è una signora. E comunque c'è una signora sulla 60ina? No, è molto più giovane, sarà 35 anni, 36 anni, ma è sulla da me comunque anche. Vabbè, è disinteressato, sono passati 2 anni, perciò a questo punto avrei fatto anche delle avance. No, assolutamente. L'ha presa a cuore? Ho preso a cuore, ma mi sono trovato dopo ad aver preso a cuore anche questi gatti, perché io comunque l'ho aiutata, visto che stava nel comprensorio dove abitavo io, e lei ci metteva le scatolette per quando pioveva, perché vedevo che loro andavano dentro perché sentivano freddo. Siamo riusciti con lei e ad altri gattari, sempre finanziando questa cosa, a farli sterilizzare, per fare in modo che ogni volta diventavano 12, 13, 15 quindi gatti. È diventato un lavoro per lei o un hobby la gestione della colonia? Sì, no, c'è la colonna, no, io gli do una mano e mi sono trovato a comprare delle scatolette e quando passo lì la sera gli do anche io qualcosa da mangiare. Sì. Però c'è una cosa, dirle, parecchi di queste persone che io conosco perché abitano nel comprensorio sono persone, devo dire, anche malvagie, perché non è vero che parecchi morivano di stenti e di freddo, e perché normalmente... Ecco, stanno arrivando, sì, prego. E allora parecchi addirittura hanno pensato di dargli fuoco, hanno buttato la benzina. Vede, ha una base concreta. La paura della gattara generale. Esistono persone crudeli che vogliono dare fuoco ai gatti, avvelenarli, via dicendo. Questa usanza è cambiata da quando sono intervenuto io, che sono una persona abbastanza energica, ho parlato con tutti gli altri. Quindi lei ha minacciato. Sta diventata colonia, appunto, apponendo tutti quanti i cartelli che, siccome è una colonia, è anche protetta, e chiunque, siccome sono delle camere, faranno del male ai gatti. A quel punto questa cosa... Abbiamo capito, Giorgio, ma fa troppo lunga. Scusi, la colonia dei gatti, bene, si salverà l'anima, ha aiutato la povera gattara che era sola, ha salvaguardato con la sua prestanza fisica dalla crudeltà dei vicini, quei poveri gattini. Adesso sono le telecamere di sorveglianza, il cartello è una colonia, e i gatti si pappano tranquilli le loro scatolette e nessuno può molestarli. Ma noi torneremo fra qualche istante con nuove letture alla vicenda della serial killer seriale dei gatti di Roma. Ti piacerebbe entrare nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspetta domenica 17 dicembre al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Sì, è accaduto perché abbiamo fatto un'enorme pressione psicologica sulla signora, che è stata costretta a consegnarceli, perché altrimenti non si poteva, in quella casa non ci si muoveva, era talmente piena di immondezza, si può dire così, che non... Quindi la signora stessa li ha presi e ce li ha messi nella gabbietta. Un'emozione incredibile. Il salvataggio dei gatti della prigionia in cui la signora killer li teneva in casa, li usava come soprammobile. La casa è stata trovata con reperti di gatti mummificati che stanno lì buttati insieme ai mucchi di immondizia che accumulava questa signora. Stiamo raccontando oggi un mondo singolare, parallelo, che vive attorno all'idea del gatto urbano. Abbiamo lambito la figura della gattara e stiamo parlando di una signora che in realtà ha perso il senso di comprensione del fatto che i gatti siano esseri, comunque non possono essere messi e accumulati assieme a degli oggetti, ogni tanto bisogna anche dargli da mangiare. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, Giuseppe Neri è neuropsichiatra, past president della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Ti ho fatto ascoltare, Beppe, la premessa di questa vicenda. Dal tuo punto di vista, cosa ci vedi? Un problema psichiatrico di cui l'aspetto del gatto poi ha la sensibilità delle persone che hanno una particolare sensibilità dei gatti. Il problema umano in questo caso è preponderante rispetto a quello che accade, oppure bisogna guardarla nel complessivo questa vicenda? Secondo me l'aspetto gatti è relativamente accessorio. Ci troviamo di fronte a una persona che ha un importante disturbo d'accumulo seriale, è l'aspetto, diciamo, dell'iceberg che emerge, ma lì c'è uno spettro ampio, secondo me, di patologia che spazia in maniera molto vasta e che può coprire vari aspetti. Cioè, la signora aveva i gatti di cui non si occupava, ma la signora aveva 16 tonnellate di roba in casa. Quindi è quello che, secondo il DSM americano, la Bibbia degli psichiatri, è un disturbo d'accumulo seriale grave, probabilmente, non ho elementi, associato ad altre importanti turbe delle capacità di giudizio e di critica che spiegherebbero il fatto che, non mi sorprenderei se la cura della persona di se stessa, l'alimentazione anche di se stessa e quindi il problema anche di alimentare i gatti fossero del tutto marginali per questa persona, che sicuramente ha un quadro di sofferenza grave, che mi dicevi, sentivo dalla trasmissione, era noto ai servizi territoriali. Ma quello che mi sorprende a questo punto è che si è intervenuti con un provvedimento del magistrato per la tutela della salute dei gatti. Cioè, questa con 16 tonnellate di roba in casa che poteva, c'era molta carta, perché di solito questi leggono, accumulano molto, prendere fuoco, era un problema serio per la collettività, per il condominio, per le persone. Però si è intervenuti, ottima cosa, per i gatti. Io penso che adesso che i gatti sono in salvo, bisognerebbe capire cosa succede nell'interesse anche di questa persona. Anche perché, però, le uniche persone che hanno preso a cuore questa vicenda sono quelli che vedevano i gatti sul cornicione, che si buttano giù, si sarebbero suicidati. Diciamo, è stata la punta proprio dell'iceberg che poi ha determinato il fatto. Ma i vicini di casa, i servizi sociali, le persone del quartiere, il fatto ci fosse una signora con tonnellate di roba in casa, probabilmente per loro è un fatto indifferente. Io sono molto perplesso su questo. Io penso che se uno andasse a scavare scoprirebbe che qualche tentativo c'è stato. Il semplice fatto che sia noto, perché di solito queste persone non sono seguite solo dal Dipartimento di Salute Mentale, ma sono seguite anche dai servizi sociali della circoscrizione. Quindi questo avviene quasi sempre su segnalazione di terzi. Non si candida la persona per essere seguita. Anche perché per lei, io seguo con passione la serie televisiva Case da Incubo. Per loro è un trauma terribile. Quando li svuoti casa piangono come se li portassi via la famiglia. È un disturbo psicopatologico grave perché li stai deprivando di una parte del sé. Perché il problema di fondo di queste persone è che non riescono a separarsi da quelli che vivono come parti di sé, che può essere il diario della mia terza media o anche il Corriere della Sera del 72. Non so se è azzardato chiedertelo, ma per persone del genere averci in casa un gatto, un essere umano, alla fine tenerlo come oggetto di accumulo è la stessa cosa. Rientra quelli che poi trovano che nell'armadio c'hanno la nonna mummificata o c'hanno il parente morto che lo tengono in casa. È ragionevole presumere che il rapporto, la relazione che costruiscono anche con gli umani sia perturbata. Giustamente tu citi dei casi in cui anche separarsi da quello che è ciò che resta, cioè il cadavere, è un problema e quindi il cadavere viene vegliato e tutto quello che ne consegue, certo. Sentiamo Lorenzo. Lorenzo, buongiorno. Sono un chirurgo ospedaliero di chirurgia d'urgenza da 30 anni. Ho sentito con molto piacere la dissertazione del collega, che condivido pienamente in fatto di diagnosi. Sono allibito soltanto da un fatto, che io penso di essere abbastanza non provocatorio, ma vado giù di piatto. Sono anni ormai, voglio dire 30 anni, bene, che la salute mentale, quindi le persone che hanno disturbi mentali gravi o meno gravi, sono abbandonati a loro stessi. Lasciamo perdere i servizi territoriali che sono totalmente assenti, ma sono pazienti gravi che hanno disturbi organici. Lasciamo perdere ancora, come ha detto il collega, che questo è un sintomo di un disagio mentale. Ma quella persona poteva dar fuoco al palazzo, poteva saltare in aria col gas, poteva finire sotto un'auto, poteva fare di tutto e di più. Il problema è che oggi noi siamo una nazione, una civilissima Europa, bene, che ha deciso per motivi suoi ideologici e di convenienza e dirò quali, di abbandonare una popolazione di malati a loro stessi. Questo è quanto. E ce ne freghiamo largamente. Mi dispiace per il collega e via, ma anche la società italiana. Il collega in ascolto può replicare, ma penso siate d'accordo su questo. Perfettamente, noi di pronto soccorso lo sa benissimo come ci comportiamo. Quando arriva un malato in quelle condizioni, non abbiamo una struttura dove affidarlo. Sa benissimo che i cosiddetti assistenti sociali sul territorio sono persone spesso largamente impreparate, che non possono neanche fare terapia farmacologica. Lo sa benissimo, è terapia contentiva. Abbiamo dei problemi di zombie che vagano. Io ho fatto pronto soccorso all'Umberto I, lui sa perfettamente di che sto parlando. Con la stazione Termini a due passi per anni. Noi stessi che abitiamo a Piazza quindi, Indipendenza, lavoriamo in Piazza Indipendenza, sappiamo esattamente appunto, come sapete benissimo, l'inferno dei vivi che si aggira con i cartoni. Ci sono due sorelle di origine siciliana che vivono davanti alla stazione Termini, dietro allora la Sagra Papa, da almeno 20 anni. Io le vedo tutte le mattine che fanno i bisogni sul marciapiede, quindi le conosco bene. E Adele, la nostra, che so 3 mesi che era ricoverata a Umberto I in Assanteria anni fa, quando venne il magistrato, Amelia si chiamava. Quando venne il magistrato dice, ma questa che ci fa qui? Dico, portala a casa te, sta qua, da tre anni, viene tutti i giorni. Fermo un attimo Lorenzo, facciamo ribattere però stiamo Giuseppe parlando Neri. Di barzellette, di sciocchezze. Fermo un attimo Lorenzo, calmo Lorenzo. Sì, tranquillo. Giuseppe Neri, il tuo collega, lui, se la prenderà con te, ma non so cosa c'entri te. Le cose che derivano dall'esperienza che condivido, il pronto soccorso l'ho fatto anch'io in un grande ospedale in Roma Nord per tanti anni e mi diverte molto che l'accidentale possesso insieme alla specialità in neurologia, anche quella di psichiatria, mi attribuisca il ruolo di difensore d'ufficio della 180. Non lo sono. Sono stato estremamente critico su questo, mi sono attirato gli strali dei sacerdoti e delle vestali del Tempio riguardo questo in tempi non sospetti. Quello che con molta veemenza ma giustificata il mio collega dice è una realtà che è conosciuta ma che emerge soltanto quando ci sono casi che arrivano alla cronaca nera o agli scandali. La quotidianità è fatta di teorie straordinarie, di proclami meravigliosi, ma di realtà operative concrete estremamente carenti. Ma sentiamo Luca De Bec, avevamo sentito all'inizio la trasmissione che è il regista teatrale che si è occupato personalmente questa vicenda. Ci spieghi, adesso abbiamo sentito i due clinici che hanno dato un quadro più generale su quello che è la protagonista di questa vicenda. In particolare, tu che hai passato molto tempo sotto le finestre di questa signora, cosa accadeva? Allora, io intanto vorrei dire che per esempio l'appartamento già ha preso fuoco più di una volta, anche perché questa signora ha vissuto per lungo tempo senza energia elettrica, quindi usava candele e ovviamente con tutto quell'accumulo di materiali, quindi c'è stato un intervento dei vigili del fuoco in cui c'è stata quindi una prima entrata nella casa, e già da quella prima entrata qualche anno fa si era vista lo stato in cui viveva la signora. Un appartamento invaso da migliaia e migliaia di scarafaggi, un appartamento dove l'odore era insostenibile. Ma i vicini di casa non avevano anche un fastidio? I vicini di casa da anni lottano per ottenere un intervento. Ma l'interlocutore chi era? In questo caso chi era l'interlocutore? Quale municipio? L'interlocutore è il settimo municipio, il comune di Roma, che però ha emesso delle ordinanze di sgombero, ma queste ordinanze, di fronte al rifiuto della signora di aprire la porta, sono decadute. Allora, il problema quindi è anche questo, cioè gli strumenti... Fermo un attimo, scusa Giuseppe Neri, ma non c'è in questo caso gli estremi per un TSO, anche se il termine è molto brutto? Il problema è che il TSO viene emesso sulla base della valutazione di un medico che ha accesso alla valutazione, alla visita della paziente. Per cui dovrebbe essere preliminarmente autorizzato a entrare in quell'appartamento e a fare una valutazione. Allora, questo cosiddetto pronto soccorso psichiatrico a domicilio non mi risulta che in questi termini esista, o perlomeno esiste se il paziente sta con dei familiari che chiamano, e allora, essendo non solo ma con dei familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'ipergarantismo di una legge che tutela sicuramente le singole persone ha degli aspetti estremamente vulnerabili che poi producono i risultati che vengono descritti. Allora, fermiamoci un istante che devo dare la linea, riprendiamo. La vicenda è partita, sembrava una facezza su cui quasi sorridere, la serial killer Gattara, però vedete che è un episodio che diventa paradigmatico, significativo di una realtà di abbandono molto più estesa. Ora, io sono sempre stato considerato un dissacratore anche di quello che per molte persone ha sensibilità spiccata verso gli animali, ma questa volta, se non ci fossero stati gli appassionati di gatti, che comunque hanno fatto qualcosa, hanno portato la vicenda all'onore della cronaca, di questa vicenda non sarebbe saputo più nulla prima che fosse successo magari qualche grosso problema come il tentativo o l'inizio di incendio in quella casa. Ci fermiamo un istante. Melog 800 24 00 24. Capiamo con una storia che è iniziata parlando di gatti suicidi, di serial killer di gatti, che esiste un problema. Nel settimo municipio di Roma c'è una signora che da anni vive come accumulatrice seriale in una casa, creando anche problemi per se stessa e per gli altri, e sembra che finora non ci sia stato nessun intervento deciso. Paradossalmente, ma è l'aspetto miracolistico del mezzo radiofonico, ci stanno chiamando inquilini dello stesso palazzo. Ne abbiamo già due. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, io chiamo perché ho sentito tra l'altro che finora non si è fatto niente, mi sembra veramente... No, aspetti, signora, lei dove abita? Nello stesso palazzo della signora? Nello stesso palazzo da tanti anni, mi sono sposata, sono venuta ad abitare sfortunatamente qui e posso testimoniare, perché sono stata una delle varie persone che ha denunciato questa situazione negli anni moltissime volte. Quando è iniziata questa storia? Cioè, prima la signora aveva un comportamento normale? Prima la signora aveva un comportamento, diciamo, abbastanza normale, perché anche perché viveva in una situazione affettivamente protetta, c'era qui la mamma e una sorella, quindi insomma comunque... Adesso è sola, non ha più parenti. Adesso è sola ed è profondamente sola, perché anche chi dovrebbe essere preposto a supportarla in realtà non è mai intervenuto, un po' perché con lei è difficilissimo riuscire ad avere un aggancio, ma molto perché comunque, come dire, tutti latitanti. Quali sono i problemi che avvertite nel vostro condominio? Allora, noi i problemi, lei può immaginare la puzza, non voglio dire il cattivo odore, è un eufemismo, la puzza mostruosa. La puzza di gatto morto è una tipica puzza fra le più terribili, si sa. Sì, ma non c'è solo puzza. puzza di gatto morto, cioè puzza a 360 gradi, perché lei non è gattara, lei è accumulatrice seriale. Sì, sì, l'hanno proprio già detto questo. Il gatto, voglio dire, i gatti sono stati per noi una meravigliosa scusa perché in qualche maniera intervenissero. Ma per fortuna, se non c'erano i gatti nessuno se ne sarebbe occupato. Ma lei si rende conto? Noi abbiamo fatto denunce a 360 gradi, compreso il Comune di Roma, compresa la ASL, da un punto di vista legale. E nessuno è intervenuto? Nessuno, hanno tentato di intervenire, ma poiché lei non apre la porta, praticamente si sono fermati di fronte. Scusi, a questa porta. Scusi, ma cosa mangia questa signora se non esce mai di casa? Non abbiamo idea. No, lei esce di casa, esce, entra, fa quello che ritiene opportuno, ma insieme a lei escono, entrano blatte in continuazione. Lei non ah, può quindi sapere... ha come, diciamo, come il pifferaio magico, invece che i topi, gli scarafaggi. Vabbè, e noi pensavamo in qualche maniera che i gatti potessero sopperire al problema delle blatte. No, aspetti, lei sta avanzando il sospetto, ci sia a rischio se fosse mangiata pure i gatti qualche volta. No, assolutamente non voglio neanche scherzarci, perché questa è una persona fortemente, secondo me, bisognosa d'aiuto. Però creda, noi inquilini abbiamo fatto l'impossibile. Pensi che questo famoso sgombero che è stato fatto grazie agli amici dei gatti, l'abbiamo anche pagato, quindi oltre al danno beffa. No, e l'abbiamo pagato volontariamente, perché non è intervenuto, continua a dire, nessuno. La signora ha un avvocato di supporto che regolarmente viene sostituito da qualcun altro. La legge non ci ha tutelato minimamente. Cioè lei ha diciamo, sopra... diciamo un amministratore di sostegno, sì, qualcuno sì, che però, è un avvocato. Sì, ma completamente inadempiente. Io abito sopra il suo appartamento, la sua casa nel 2013 è andata a fuoco e noi casualmente eravamo svegli quella notte, alle 3 di notte siamo scappati, abbiamo allertato tutto. I vigili del fuoco di Roma conoscono benissimo la situazione, l'ex ufficio di igiene conosce benissimo la situazione, l'altro non ne parliamo, ma nessuna delle istituzioni a oggi ha mosso un dito per venire incontro a 25 famiglie. Ma c'è un nome, chi è il presidente del settimo municipio di Roma? Lo conosce? Avete avuto contatti? Recentemente, personalmente no, so che l'avvocato del condominio ha avuto contatti col presidente, ma con i presidenti precedenti, sono andata addirittura a parlare io con il presidente del municipio qualche anno fa. E mi dicevano, signora, non abbiamo i fondi, è difficile intervenire, cercheremo, noi, se non era per questi animalisti, noi praticamente non avremmo avuto nessun passaggio, ma neanche, ecco, di questo tipo di informazione. Resti in linea. Allora, Luca De Bea, alla fine, per voi naturalmente... l'attenzione era di salvare la vita a questi gatti, però vi rendete conto, se voi non aveste fatto la vostra azione di salvataggio dei gatti, di questa vicenda non se ne sarebbe mai parlato. Sì, da un certo punto di vista è così, e da un altro punto, e per fortuna abbiamo trovato un magistrato che ci ha dato ben 4 interventi, cioè ci ha dato prima un mandato di perquisizione, poi un mandato di sgombero, poi un altro mandato di perquisizione, e quindi abbiamo trovato per fortuna un magistrato sensibile a questo argomento. Però io dico anche, se invece di gatti fossero stati dei bambini, che cosa si sarebbe mosso? Immagino qualcosa di diverso. Allora, siccome il maltrattamento di gatti è comunque un reato penale, allora, che per fortuna c'è stato, sì, un questo, interesse questo degli animalisti, ma che cosa deve succedere perché veramente le istituzioni facciano qualcosa? Bisogna trovare un bambino. Però, di atto che a questo punto le istituzioni per i gatti sono mosse, hanno fatto tutti gli atti giudiziari che non sono stati fatti. La cosa è aperta, sappiamo che il settimo municipio può averci ascoltato, qualcuno riferirà, vedremo se ci saranno sviluppi. Alla prossima!